Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È stata violentata nel bagno di una discoteca mentre era completamente ubriaca. È accaduto a una 17enne riminese che stava trascorrendo il sabato sera in un locale della Riviera. E le amiche della ragazza, anziché intervenire, hanno ripreso la scena col telefonino. È stato proprio il video inviato su WhatsApp a rendere noto alla 17enne quanto era successo quella sera. Lei, che si trovava in uno stato di totale inerzia a causa dell'eccesso di alcol, il giorno dopo non ricordava nulla. Ad abusare di lei nel bagno, approfittando delle sue condizioni, sarebbe stato un giovane albanese. Ancora non è chiaro se sia stato lui a indurla a bere in eccesso o se sia stata la ragazza a farsi trascinare e a procurarsi l'alcol, nonostante il divieto di vendita ai minorenni. Una volta visto il video, ha raccontato quanto accaduto alla madre, che ha denunciato tutto ai carabinieri. Le indagini ora stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta. Questo è l'episodio che oggi in tutti i giornali è assimilato a quello di cui abbiamo trattato ieri, della ragazza napoletana suicida. Un suicidio collegato, perlomeno inserito in una vicenda che dura da un anno, la vede protagonista di alcuni video hard che hanno avuto una diffusione in rete e le hanno creato un forte danno di immagine, emotivo. Per cui oggi noi stiamo parlando, tutti stiamo parlando e tutti stiamo raccontando, e su questo tutti stiamo anche versando, probabilmente anche io me ne faccio carico, fiumi di retorica. Faccio la sintesi: il mondo è cambiato, non è più come una volta. Oggi sono questi strumenti che sono come armi nelle mani delle persone. Ai ragazzi, dove sono i valori di una volta? Dov'è la morale di una volta? Alle ragazze, queste ragazze sconsiderate che cedono così facilmente la lusinga, la vanagloria di avere in rete delle immagini che celebrino la loro bellezza, la loro intraprendenza, la loro capacità di porsi nei confronti del mondo maschile. Tutto questo sono chiacchiere che riemergono, vengono in superficie tutte le volte che ci sono terrificanti e spaventosi episodi di cronaca in cui gente muore, gente viene stuprata, gente comunque ha delle estreme conseguenze rispetto a cosa? Rispetto a una incapacità e incultura nel gestire le proprie protesi emozionali, nel gestire le proprie relazioni. Le relazioni sono sempre state un argomento difficilissimo, impossibile da gestire. Non c'è scuola di relazioni, uno può dare ai propri figli, ai propri alunni, ai propri allievi dei dettami, poi la vita, l'equazione individuale delle persone, le circostanze muteranno attraverso la loro esperienza, che sarà dura, negativa o felice, questo dipende da quello che il fato metterà nelle loro mani, la capacità di definire a un certo punto come ci si relaziona con il mondo, e non si impara mai fino in fondo. Da un certo punto in poi, diciamo da un 5 anni a questa parte, se vogliamo restringere alla diffusione degli smartphone, dei social network, la relazione viene mediata attraverso delle macchine, attraverso la digitalizzazione delle nostre azioni, delle nostre emozioni, delle nostre pulsioni, dei nostri desideri, delle nostre cose più segrete. Ecco, a questo punto non basta più la trasmissione regolare dell'esperienza, perché si è capovolto l'equazione per cui la persona più anziana ne sa più di quello più giovane. Quello più giovane magari ha una grande manualità, ma gli manca la definizione di quello che in realtà sono i sistemi tradizionali per conoscere se stesso, per conoscere gli altri, per mettersi in relazione con gli altri. Io questa mattina parlerò comunque di questi episodi, risponderò alle domande, anche le più semplici, quelle che sembrano più banali, ai nostri ascoltatori, con persona esperta. Vorrei lanciare l'idea che forse noi mediatori della comunicazione e delle informazioni, oltre a raccontare i fatti, oltre a sentire dei pareri, dobbiamo cominciare a farci portatori della necessità di lanciare una nuova disciplina, una nuova forma di pensiero. Io la chiamo ingegneria relazionale. Significa che le persone, come ci sono gli ingegneri che pensano e immaginano l'organizzazione delle aziende, ci vogliono degli ingegneri, non so se è il termine esatto, che aiutino l'umanità a ingegnerizzare le proprie relazioni, perché non possiamo più farcela soltanto con il nostro istinto e con quello che abbiamo capito, appreso dalla nostra esperienza personale, concreta. Le macchine intervengono, è un grande aiuto, una grande amplificazione della nostra potenziale maniera di relazionarci, ma bisogna che qualcuno ci insegni come fare. 800240024, partiamo tra poco con il primo tentativo di approccio all'ingegneria relazionale. Melog, Cronache Meridiane. 800240024. Sintetizzo il mio fumoso preambolo in una domanda. A chi vi rivolgete o chi finora vi siete rivolti quando avete dei dubbi, delle angosce, delle perplessità o dei drammi, dei problemi nel campo delle relazioni? Relazioni naturalmente mediate. Quando vedete e avete il sospetto che i vostri figli frequentino cattive persone, e quando il vecchio lumacone vi manda foto intime su Facebook, quando siete in dubbio se conoscere la persona che tanto vi lusinga quando vi scrive nei social network, quando pensate se è giusto o no mettere questa foto, a chi vi rivolgete? Io ho proposto l'ingegnere relazionale. Voi finora, quando avete problemi riguardo al mondo vastissimo e variegato delle vostre emozioni e delle vostre relazioni mediate dagli strumenti che avete in mano, quindi il vostro smartphone, a chi chiedete aiuto? Andate dallo smanettone amico che ci capisce di computer e chiedete a lui? Andate dallo psicologo? Andate dall'amico che pensate che abbia esperienza di vita? Andate dal prete? Andate dal medico? Da chi andate? A chi chiedete aiuto? Vedete che manca una figura professionale, manca un corso disciplinare, manca una facoltà universitaria, manca una disciplina scolastica che secondo me si chiama ingegneria relazionale. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. 800240024. Vi porto una persona che non è un ingegnere relazionale, ma è il primo tassello di questa idea che voglio continuare a coltivare. Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Inizio di questa cosa in cui ci sarebbe tutto da dire, ma molto è stato detto questa mattina. Sono stato ospite dell'ottimo programma dei colleghi Milan Giannino, dove è stato già sviscerato l'aspetto giuridico di queste due vicende che in realtà poco hanno a che fare fra loro, se non c'è di mezzo il grande imputato che è la rete. Poi è stata citata l'intervista della dottoressa Lisa Di Bernardino, che è, mi sembra, vicequestore di Milano, se non sbaglio, sì, vicequestore aggiunto della Polizia Postale di Milano, che fra i consigli che dà dice nel titolo, che sembra dirompente, i genitori guardino nei cellulari dei ragazzi. Partiamo da questo punto di partenza che vale sia per la ragazza di Napoli, che è sì grande, ha 30 anni, ma la sua vicenda mi sembra è stata gestita dalla madre, dal padre, dalla famiglia, quindi è adulta da un punto, era adulta poverina da un punto di vista dello stato civile, ma in realtà ancora la famiglia gestiva le sue relazioni immediate che hanno avuto effetti funesti. Si vale per le ragazzine di Rimini che hanno fatto questa totale cavolata di partecipare a una sorta di stupro su una loro collega filmandola e diffondendone le immagini. Se l'ingegnere relazionale dovesse oggi dare un consiglio, cosa direbbe ai genitori, visto che sono i primi elementi di questa catena, forse quelli più deboli, più perplessi? Ma il tenere sotto controllo le connessioni che il figliolo ha, secondo me, è una cosa fondamentale. D'altronde l'abbiamo sempre fatto nella vita reale, no? Insomma, io da piccolino, finché avevo 10 anni, potevo già nel quartiere conoscere certe persone, crescendo ho potuto girare un po' più in là nella prima piccola città di provincia, e solo da grande sono diventato perfettamente autonomo. Ecco, secondo me dovremmo applicare criteri analoghi anche quando controlliamo o affidiamo ai più giovani l'uso degli smartphone, in fondo. Controllare con discrezione, ovviamente, ma io credo che sia un nostro dovere in primo luogo come genitori, insomma, ancora prima come cittadini, stare attenti ai brutti incontri che si possono fare. Prima i brutti incontri si potevano fare unicamente per strada, non prendere caramelle ad uno sconosciuto, adesso i brutti incontri invece si possono fare anche online, e molto spesso i più giovani tra di noi non sono preparati a questi incontri, proprio perché questi incontri, tutto sommato, hanno poco a che fare con la tecnologia, cioè la tecnologia è un mero accidente. Allora, veicolo. Andrea, io ti ho chiamato, è noto che ti chiamo molte volte, tu sei un professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegni anche informatica giuridica, quindi il tuo campo è il campo prettamente informatico. Ti porto oggi come tuttologo, che dobbiamo ancora definirla, non so se tu sarai d'accordo sull'idea che forse l'ingegneria relazionale può essere una disciplina, diciamo, multidisciplinare. Ci serve appunto un informatico giuridico, serve una persona che conosca comunque anche gli aspetti più legati alla socialità, serve anche una persona che abbia strumenti tecnici. Ma adesso lo chiedo alla persona, al giurista. Per controllare i figli ci sono dei vincoli tipo giuridico? Può dirti tuo figlio minorenne: papà, non mettere le mani nel mio telefono perché è violazione della mia privacy? Perché questo viene risposto molte volte ai genitori. No, assolutamente assolutamente no, intanto perché la SIM che il figliuolo ha nel cellulare è tendenzialmente intestata a un adulto, non può essere intestata a lui in quanto minorenne, quindi il telefono che il mio figliuolo o la mia figliuola usano in realtà è mio, ed essendo mio io posso fare un po' quello che voglio. È chiaro che io sto violando la privacy intesa come principio morale, no? È chiaro, nello stesso modo in cui una mamma che piomba in camera di un adolescente maschio senza bussare prima sta violando la sua privacy, è evidente, però qui non c'è nessun profilo giuridico su questa cosa, e io credo che appunto proprio come genitori abbiamo il dovere di vigilare sui comportamenti che i nostri hanno, cercando di violare il meno possibile ovviamente la loro privacy, ma rendendosi conto che loro de jure non hanno una protezione. Quindi almeno diciamo che il genitore bimbo minchia che è fiero che il proprio bambino appena svezzato dalla poppata smaneggi e smanetti sul tablet, dice, quando, l'ho visto fare decine di volte, guarda mio figlio, già quando deve dire qualcosa è come se lui stesse usando la mano sullo screen del suo cellulare, fierissimo, ok, oltre a darglielo devi dargli anche qualche strumento perché tu possa avere comunque un minimo di feedback di quello che sta facendo, questo è il punto. Certo, è fondamentale. In passato noi avevamo parlato in maniera più specifica, se ti ricordi, insomma, di appunto educazione civica digitale, no? Insegnare che in realtà anche in rete comunque ci sono regole giuridiche e sociali che funzionano. Non è come pensano alcuni un far west la rete, insomma, un far west è un posto dove ci sono regole che vanno conosciute, rispettate, e in alcuni casi si deve avere anche il coraggio semplicemente di staccare la spina, no? Di chiudere, perché comunque vivere dentro un social network non è in qualche modo obbligatorio. Allora, no? Io faccio mio quello che hai detto, faccio da una prima massima. L'azione non è quella di limitare la sregolatezza, perché sennò sarebbe un'azione tipo morale, etico, non esiste, ma semplicemente conoscere le regole. Puoi essere sregolato, ma devi conoscere le regole. Se la tua sregolatezza comunque entra in strumenti di diffusione digitale, se non seguendo quelle che sono le regole giuridiche per farlo, ci possono essere dei problemi. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24, in attesa che noi definiamo la facoltà di ingegneria relazionale, a chi vi rivolgete voi? Niki, buongiorno. Sì, buongiorno. A chi chiede consigli lei? A chi chiede consigli? Ma io volevo solamente dire una cosa, che io sono praticamente navigato sin dall'epoca dei primi blog con GeoCities, dove si creavano i blog per poter comunicare. Io credo che è già una terza fase, della rete. Esatto, ma siccome praticamente i blog sono spariti completamente, io credo che il problema più importante e che è stato sottovalutato è che le persone cercano visibilità attraverso il social network. Ma è un male questo, secondo lei, Niki? No, non è un male, però è un'arma a doppio taglio, secondo me, perché molte volte non si sa con chi ha a che fare, perché mi ricordo che quando avevo un blog di poesia, la gente a volte mi insultava, mi diceva che sono un figlio d'Antrocchia, che facevo schifo, però erano anonimi. Invece qui le persone non sono più anonime, sono persone reali che praticamente si inseriscono nelle tue amicizie, si reputano amici e poi invece sono persone che ti si rivoltano contro. Quindi ebbene, pensava che l'umanità, scusi, lei prima che questa verità che il mondo è fatto di stronzi glielo rivelassero i social network, pensava che l'umanità era fatta di brave persone o di persone aperte. Il social network dimostra che magari lei mette una poesia e ci sono persone che non hanno nulla da fare e sentono in dovere di prenderla in giro per quella poesia. Appunto l'ingegnere gestionale spiega come gestire questa sorta di angoscia, che le dà angoscia, come rispondere a queste persone, come azzittirli senza bannarli semplicemente, sarebbe peggio. Davide, buongiorno, velocemente. Buongiorno. A chi si rivolge lei? Ma io più che rivolgermi aiuto, nel senso che io voglio questo telefono per difendere una categoria professionale, sono uno psicologo. Secondo me chi è competente nell'insegnare, nell'aiutare a gestire la relazione è proprio... Ma non è che ho escluso gli psicologi, dico in uno staff multidisciplinare lei avrà bisogno comunque di supporti tecnici per, oltre diciamo il supporto tipo psicologico da lei, capire esattamente come arginare gli effetti dell'amplificazione che non c'è ancora, diciamo, materia che la disciplini, perché si cresce ogni giorno, cambia qualcosa, o sbaglio? Ma guarda Gianluca, io credo che quello che è successo, e tanti altri esempi se ne potrebbero fare, sono in gran parte riconducibili al fatto che si parte da un problema relazionale su un nuovo mezzo, cioè un mezzo di cui non si conoscono non tutti conoscono le potenzialità, i rischi, le caratteristiche, ma la relazione è sempre quella. Il problema è che nella relazione vis-à-vis io mi comporto in un certo modo perché sono più abituato. Allora Davide, scusa un attimo, siccome non voglio interromperti, È interessante, mi servi fra qualche minuto quando dopo la pausa, perché voglio porti alcune domande, vengono dalla mia esperienza. Le stesse cose accadevano negli anni 70, negli anni 80, c'erano le ammucchiate nei clubini, c'era l'amica che era più ingenua e più disinibita delle altre, l'amica invidiosa. C'è sempre stato questo meccanismo, dice una cosa molto giusta. Però bisogna capire oggi l'amplificazione di tutta questa esperienza sentimental relazionale che abbiamo sempre tutti avuto in maniera a volte bruciante, a volte gratificante, come oggi in qualche maniera può essere gestita. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Nicoletti, la privacy, scritto così, privacy dei minori, di cosa stai parlando? Sono puttanate di sinistra. Ecco, questa è la percezione media di un signore, probabilmente è circondato di smartphone, probabilmente lumaconeggia tutte le avvenenti signore che vede su Facebook, chiede informazioni, è convinto di saperla tutta. Per lui la privacy, che lo scrive privacy, è roba di sinistra, perché è roba schifosamente di sinistra, radical chic. In realtà il vero uomo non dovrebbe tenere conto di questi aspetti trascurabili. Un altro ascoltatore mi fa una domanda complicatissima, vuol sapere se è vero che un contenuto online non si può rimuovere, e ammesso che si rimuova poi galleggia nel deep web, nella parte oscura della rete, tuttavia gli sembra di aver sentito ci sono degli hacker capaci di andare a riprendere il contenuto anche nella fogna dell'oscurità per cancellarlo. È molto più semplice la vicenda quando stiamo parlando di segreti di Stato, stiamo semplicemente parlando di materiale che in maniera inconsapevole, perché ignorante, viene messo in rete, che poi crea degli effetti. Devo dire, sono indignato questa mattina con il pubblico femminile, fatevelo dire signore, non ha ancora chiamato una donna, non vedo il messaggio di una donna. Parliamo di episodi in cui le vittime sono donne, considero vittime anche le sciagurate ragazzine di Rimini, vittime in quanto totalmente stupide e nemmeno capaci di prendersi la responsabilità di aver fatto una stronzata. L'avvocato ha detto, sa, non avevano visto, c'erano le mani alte quando filmavano la ragazza stuprata dal signore nel gabinetto della discoteca. Ecco, mi rendo conto che nella avanzatissima maniera di concepire la relazione digitale, a donne quanto mai sottoposta a una sorta di caccia grossa, molto di più di quanto lo fosse stata negli anni 50, 60, 70, 80. Siamo tornati all'età della pietra, veramente. C'è chi fugge o chi mostra le terga, c'è chi corre dietro come una bestia infogliata. Questa è la chiave. Visto che dovete recuperare una vostra autonomia, una vostra autorevolezza in rete, spesso siete le prime vittime, fate sentire le vostre vocine, visto se le mamme, sorelle, fidanzate, vittime, avete anche voi uomini, vi chiedono di fare i filmini, di fare le foto come prova d'amore, o anche voi vi divertite a farlo, non c'è niente di male, però dopo non vi lamentate, non pensate che sia la rete cattiva. Bisogna sapere, prevedere e conoscere, serve un ingegnere relazionale. Andrea Rossetti, poi continueremo con lo psicologo, mi sembra interessante quello che dice, ma vediamo di capire, tu che ti occupi di aspetti giuridici, quanto volevo che tu mi aiutassi a mettere insieme questo pool professionale che dovrebbe oggi imporsi nelle scuole. Dovete fare questo tipo di educazione, spiegare queste cose. Rossetti spiegherà l'aspetto giuridico, chiameremo un altro che spiega l'aspetto tecnico, lo psicologo spiegherà come le relazioni vanno gestite, e noi chiamarlo psicologo quando già la ragazza è devastata, bisogna dare prima degli strumenti di gestione della sua emotività al ragazzo o alla ragazza. Come se per assurdo ti chiedessi un consiglio professionale, come metteresti insieme questo pool? Sicuramente servirebbe di base qualcuno che spieghi i meccanismi attraverso la quale la rete funzioni, quindi un informatico, ma soprattutto un divulgatore, insomma, che utilizzi buone metafore per far capire ad esempio che quando qualcuno mette in rete qualche cosa, da lì è vero che fondamentalmente è molto difficile toglierle, quindi resta sempre in qualche modo. La rete è una nostra memoria esterna, e così come non possiamo cancellare i brutti ricordi dalla nostra memoria fisica, non possiamo cancellare le cose che vorremmo dalla rete. Questa è la cosa fondamentale, perché molti errori io credo si commettono perché non si capisce davvero come funziona la rete, e dal punto di vista dei meccanismi meramente tecnologici e dal punto di vista dei meccanismi sociali. Queste direi sono le due cose fondamentali che andrebbero spiegate ai ragazzetti. Comunque gli aspetti, la tutela giuridica della propria ombra digitale, ecco, questo anche. Sì, no? Sì, la tutela giuridica è una cosa che però secondo me viene dopo, perché quello che noi, la tutela giuridica non funziona, diciamoci la verità, insomma, no? Perché effettivamente cancellare una roba dalla rete è molto molto complicato. Posso obbligare Facebook a rimuovere i video, YouTube a rimuovere i video, ma effettivamente sì, ma la consapevolezza del reato secondo me ancora non è stata ben percepita. No, da nessuno. La consapevolezza del reato, questo non c'è. Beh, insomma, ci sono ancora milioni di scaricatori, insomma, no? di contenuti con di contenuti prodotti a copyright nel mondo. Quindi in molti casi la rete, la facilità dello strumento, in qualche modo ottunde, offusca la visione di quelli che sono gli atti illeciti che noi stiamo compiendo. Quindi sicuramente ci vuole un'informazione di questo tipo. Ma come ci siamo detti più volte, sono anche soprattutto le persone che devono fare attenzione, perché in molti casi la legge non è sufficientemente forte, non è in grado effettivamente di arginare la pervasività che questi strumenti ci danno, no? Come la legge sulla privacy il diritto all'oblio, e una volta che io ho tirato via le robe da YouTube, comunque le robe resteranno da qualche parte, o io non avrò mai la certezza che qualcuno non abbia su qualche hard disk questo filmino che tira fuori tra 10 anni o tra 50 anni o non so io bene quando. Perfetto. Quindi, sentiamo un attimo, sì, sentiamo Davide un attimo, così conclude. Alla luce di quello che ti avevo posto come domanda all'inizio, i comportamenti fra virgolette trasgressivi, le sperimentazioni relazionali, fisiche, tutto quello che vuoi dei giovani, sono sempre esistiti dai tempi dei film con John Travolta. C'era la ragazza messa dentro la macchina di cui certo. Abusavano tutti noi, tutti, non solo la tua età, ma conosciamo l'idea del clubbino, che era il luogo dove si sperimentava tutto il contrario di tutto. C'era sempre una persona più debole degli altri, che poi sapevi che gli altri ne approfittavano. Te come psicologo, in quale fase interverresti di questo corso di docenza che dovrebbe partire, secondo me, dall'asilo? Non quando ti chiamano, quando già il disastro è stato fatto, penso. No, ma è chiaro che bisogna agire in fase preventiva. E soprattutto questo significa rendere consapevoli le persone che anche quando comunicano su internet, su Facebook, su WhatsApp, quello che si vuole, stanno comunicando con qualcuno, esattamente come se fossero davanti a lui. La differenza però è che hanno meno mezzi per comunicare, non lo vedono, non hanno una cosa che tu hai detto benissimo prima, non hanno feedback, non si rendono conto di come sta andando la comunicazione, non vedono le reazioni nell'altro. Il fatto di essere dietro un monitor, dietro uno smartphone, ci dà quasi una sorta di sensazione di onnipotenza, posso dire, pensare, fare qualunque cosa. E impunità anche, sì, viene da sé. Questo però non è vero, perché sto comunicando addirittura a un pubblico molto più esteso, no? Se scrivo un post su Facebook a te, però questo post viene visto da centinaia, migliaia di persone. Ti faccio un esempio, Davide, io che parlo alla radio da 30 anni. Parlo di solito davanti a un vetro di cui vedo una, due, tre persone, magari parlo a milioni di persone, mi piace pensarlo. Sono abituato a pensare che capisco e sento ormai le reazioni degli altri, capisco che il peso delle parole deve essere adeguato, perché poi dovrei risponderne comunque in qualche maniera. In realtà ogni persona che si pone attraverso uno strumento di comunicazione digitale deve cominciare a vedere una sorta di popolazione senza volto, in cui ci sono gli amici, i non amici, quelli a cui dirigi la tua attenzione, è una serie di persone che sta lì, guarda, occhieggia e non sa che uso fa della tua comunicazione, perché è laterale. Fermo un attimo, Giancarlo. Allora, buongiorno, grazie dell'intervento. Volevo dire che molte cose che voi già avete accennato sono una realtà, perché io insegno in alcune scuole, proprio a livello volontario. Cosa insegna lei? Cosa insegna? Insegno in sicurezza informatica. Ah, lei si occupa di sicurezza informatica. Quindi lei sarebbe in questo nostro pool di docenti quello che spiega proprio gli strumenti tecnici. Esatto. La cosa che ho notato principalmente è che è vero che i ragazzi devono avere consapevolezza di quello che fanno, perché è la base di tutto quanto, però il nostro impegno, per esempio, è soprattutto rivolto ai genitori, perché molto spesso i ragazzi possono anche comprendere o non comprendere quello che fanno, ma se i propri genitori poi non hanno la capacità di sapere anche loro utilizzare questi strumenti e dargli giuste indicazioni, i ragazzi sono un po' lasciati a loro stessi. Giancarlo, allora, tu lo saprai meglio di me, ma la vera profonda e abissale ignoranza è anche nella classe intermedia, dai 35 ai 55, che usano ormai con una grande disinvoltura. Perché? Perché è bello, perché ti senti trascurato dal mondo, trovi amicizie, trovi gratificazioni, ti sembra tutto molto più facile. Però questo non significa che mentre i genitori stanno facendo la stessa palestra che fanno i figli, ma i figli magari rischiano un po' di più di loro. Cristiano, ancora uomini. Eccomi. Buongiorno. Volevo dire due cose. No, mi domando, Cristiano, dove siano finite le ascoltatrici? Come mai in questo argomento hanno. No, non voglio, non è discriminatorio il mio. Io cerco di togliermi, degenerarmi, nel senso di dimenticare il mio genere, la mia connotazione, e fare una trasmissione neutra per dare possibilità ad esprimersi a tutte le parti in campo. Però sembra facciamo una chiacchierata al bar tra uomini, parliamo del grande assente che in realtà è molto presente in questa vicenda, perché sono le vittime più sensibili. Dai Cristiano, andiamo avanti. Va bene, allora io volevo dire, ho fatto due cose brevissime. Una, in merito all'intervento dell'ascoltatore che mi ha preceduto, rispetto al controllo che possono avere i genitori, è un'illusione, nel senso, io ho 38 anni, ma né quando ero io giovane utilizzavo il computer, sicuramente per l'ignoranza dei miei, cioè nel senso per la scarsa conoscenza del fenomeno dei miei genitori, ma penso che anche tutt'oggi per un genitore è una cosa, secondo me, non proponibile di avere un controllo su quello che il proprio figlio fa con gli strumenti digitali. E la seconda cosa, che secondo me è più importante, è rispetto alla cosa che diceva prima lo psicologo, è proprio vero, cioè nel senso le stesse cose succedevano 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, quando io ero più giovane, sono sempre successe, soltanto che diciamo che la cosa veniva raccontata col passaparola, quindi la prima cosa che uno diceva magari era: mamma mia, quanto mi sarebbe piaciuto essere lì. Adesso con i nuovi strumenti, c'era sempre il millantatore che ti raccontava peripezie che faceva con le tue compagne di classe, magari era vera la metà della metà della metà, però si creava una sorta di epica, rimaneva lì nell'ambito della classe, la nomea e la diceria rimaneva una sorta di pregiudizio. Oggi a me in realtà ha strumenti più concreti per il pregiudizio trasformarsi in discriminazione vera e propria. Mi fermo un attimo, è arrivata Teresa, prima donna, fa sentire la tua voce Teresa. Sì, sono qua, confermo. Ci sei, ferma lì, non ti muovere, fa un istante. Melog, cronache meridiane. 800240024, noi ci stiamo arrabattando per cercare di portare un po' di dialettica elevata su questo argomento. Vedo che è molto difficile, mi scrive un ascoltatore: per forza non ti chiamano le donne se è Gino repellente col carattere che tieni. Cioè, non so se devo fare schifo a Gino o in realtà al genere femminile, ma io non è che chiedo non mi cerco una fidanzata, fate finta che non esisto io. Sto cercando di portare il dibattito a un livello un pochino più elevato. Mi scrive una cara collega in questo momento attraverso Twitter, mi dice: mentre tu stai parlando stiamo cadendo nel becero, in questo istante su un noto programma mattutino, è 2 ore fa il messaggio, e poi in generale nella maggior parte dei programmi continua a mandare una foto di Tiziana sul luogo del crimine, cioè uno screenshot del famoso video, però ritoccata. C'è lei che apre la bocca e davanti hanno schiaffato un microfono disegnato ad arte. Se non ci fosse da piangere, verrebbe quasi da ridere. Allora Teresa, eccomi. Eccoci qua. Io insegno da un paio d'anni. Prima mi sono occupata di selezione del personale, e in tutti e due i contesti mi sono resa conto che non esiste il concetto di social reputation, o meglio è molto diluito. È come se tutto ciò che va in rete non appartenga più a me, o non sono io, è un'altra cosa. I ragazzi a cui si cerca di spiegare che tutto quello che mettono in rete resta indelebile per sempre non lo capiscono. È come se la velocità dei social ci fosse scappata di mano, ci dà un'opportunità incredibile. Teresa, la prima donna che chiama, fa l'intervento più pertinente, più sintetico, più tecnico, è quello che mi dà uno strumento, è vero. Tu, se dalla scuola si partisse, tu che sei insegnante, invece di perdere tempo e accanirsi sulla teoria del genere, se è giusto o non è giusto, le mamme che firmano le petizioni "non voglio l'educazione sessuale dei miei figli", e tutto partirebbe secondo me da una sana educazione sessuale. La gente capirebbe che non c'è niente di male andare con una persona che conosci la prima volta, se ti va, se ti piace, purché tu sappia gestirlo. È malissimo se il filmato che fai per divertirti poi lo metti in rete, lo dai a un'altra persona, devi fidarti, tutto e cento, sarebbe tutto più facile. Quindi prego, il tuo approccio è perfetto. Io vorrei che ci fosse questo ipotetico pool, che non si farà mai, che io però mi auspicherei che qualcuno ci pensasse, che tu curassi la parte di addestramento delle tue colleghe, invece di occuparsi soltanto di chiudere, di spegnere, di urlare, di strillare e via dicendo, farsi degli strumenti tecnici reali e parlare, hai detto il termine esatto, di social reputation. Maria Teresa da Pescara, ecco un'altra donna. Salve. Salve, buongiorno. Guardi, mi collego anch'io all'ultimo intervento che condivido pienamente. Manca una cultura informatica. Io credo che sia veramente solo questa in realtà la base. Abbiamo tutti realmente nelle tasche, piuttosto che sulla scrivania di casa, un'arma enorme, potente, una macchina, una vera automobile con cui possiamo ammazzare qualcuno, ammazzare noi stessi oppure fare delle cose bellissime. Ma anche divertirsi un sacco, ma scusa. Ma condivido, fare compagnia, portare qualcuno in ospedale che sta morendo per fare. Sì, ma anche portare qualcuno in posto dove si sta meglio che l'ospedale. Assolutamente. Sembra mia madre, cioè, cambiate le mutande perché se c'è un incidente è brutto, ti portino al pronto soccorso con le mutande sporche. Ma no, l'ospedale lasci la parte. No, era per fare un esempio, per tornare all'automobile, ecco. Però voglio dire, io parlo ad esempio a varie lingue straniere, riesco attraverso il computer a viaggiare, a essere in tanti mondi diversi, a fare acquisti, a fare mille cose, quindi è bellissimo, ma ci vuole una cultura informatica. Allora, io ho 39 anni, a me non è stata data da piccola, non mi è stata data nella media età, una bambina, ma neanche a mia figlia viene data. Quindi io ma adesso chi gliela dà? A me personalmente, per passione personale, a mia figlia gliela do io, però nella realtà è che non c'è, e non c'è tutto questo, e quindi poi ragazzini, adulti, ragazzi mettono un'immagine su internet, su Facebook, su WhatsApp, senza sapere poi i reali rischi, senza sapere le cose belle che potrebbero quindi, fare. Quindi però Maria Teresa, lei conviene con me che esiste un vuoto, ci sono tante persone, abbiamo sentito lo psicologo, l'informatico giuridico, il tecnico della rete, il buon padre di famiglia, la signora che si occupa di reputazione in rete ma autodidatta, perché la scuola non fornisce agli insegnanti dei corsi di preparazione specifici su questo campo. È d'accordo che bisognerebbe inventarsi una nuova disciplina che nasce dall'asilo, in cui c'è tutto, in cui l'ultima parola deve essere l'aspetto moralistico legato ai valori. I valori è un'altra cosa, l'insegnata attraverso altri sistemi. Noi insegniamo degli strumenti tecnici, come gestire quello che voi sentite emotivamente nello scoprire il mondo e andando avanti nello scoprire, come ha scoperto lei, facoltà impensabili nel avere una vita più facile, più divertente, più utile, via dicendo, attraverso gli strumenti informatici. Mi fa molto piacere. Deve aggiungere qualcosa? Sì. Sì, cioè semplicemente si parlava prima di patente europea qualche anno fa, è rimasta lì queste patenti informatiche, ora non ricordo bene il termine, è quello, cioè impariamo questo mezzo, ma dobbiamo assolutamente impararlo. Se è vero che chiunque può acquistarlo liberamente, non ci vuole la maggiore età per comprare un cellulare, per comprare un computer, per andare in un internet point, quindi dobbiamo assolutamente, come dice giustamente lei, dalla primissima età fare un'educazione informatica adeguata all'età. Grazie Maria Teresa, che ha tenuto alto il vessillo delle donne, in due avete partecipato, tutte e due Teresa. Ah, ecco Antonella. Buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Udine. Ho 45 anni. Bisogna sempre andarvi a scovare, comunque tirarvi fuori per i capelli, perché spontaneamente ve ne state tutte nascoste dietro ai fornelli. Dai, Antonella. No, assolutamente. Io utilizzo il web per lavoro, per cui alla fine ho imparato a leggere ben attentamente tutte le informazioni che devo avere prima di pubblicare. Ma lo usi anche per passatempo? Perché sennò sembra che è soltanto uno strumento. No, lo utilizzo anche Facebook, utilizzo TripAdvisor mettendo commenti, ho un profilo su Instagram, per cui sono attiva a livello web abbastanza. Ma tu hai imparato sulle tue spalle, sulla tua esperienza, qualcuno ti ha insegnato, sta attenta, se ti scrive uno. Ferma lì Antonella. Andrea Rossetti, c'è un minuto e mezzo. La proposta dell'ascoltatrice: Karl Popper disse negli anni 90 più o meno, ci vuole una patente per fare la televisione. Io lo sbeffeggiai per anni perché trovavo una cosa totalmente idiota pensarlo. Pensi che invece per usare gli strumenti informatici ci voglia qualcosa che assomiglia alla scuola guida, non diciamo alla patente, ma alla scuola guida? Sì, la scuola guida è l'esempio che è venuto anche a me effettivamente. Sì, sicuramente, come hanno detto anche alcuni ascoltatori, la conoscenza tecnica dei meccanismi di base è quello che manca praticamente a tutti. È una scuola che insegna dei corsi, che insegna soprattutto questi, sono la base su cui puoi costruire altri tipi di competenze, ma io credo che effettivamente la metafora della scuola guida sia un'ottima metafora. Impariamo a guidare e poi impariamo anche a guidare bene in qualche maniera, ma imparare a guidare è la prima cosa, insomma, con teoria e pratica. Esattamente, esatto, come la scuola con teoria e pratica, insomma, sì. Va bene, ci abbiamo provato, abbiamo lanciato un'idea, se qualcuno la raccoglierà noi saremo i primi a farci promotori dell'idea di una necessità. L'ingegnere relazionale deve entrare nelle scuole italiane, dall'asilo all'università, ma anche nelle famiglie. Alla prossima!